L'uomo e la pulce, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Spesso il buon Dio con voti stanchiamo e con preghiere noiose ed anche indegne d'un uomo d'intelletto. Come se Dio dovesse su noi sempre tenere lo sguardo e fosse in cielo degli uomini il valletto. Passò quel tempo, Enea, che usavano le mani menar gli dèi per conto dei greci e dei troiani. Una pulce morsicò sulla gamba un bighellone e scappò. «Corri, Alcide, corri e libera da quest'idra!» egli gridò. «Da quest'idra l'universo mostro orribile e perverso, della tiepida stagione. Anche tu, padre Giove, e che ci fai fra le nuvole lassù?» Dagli dèi la mazza e il fulmine supplicava per cagione d'una pulce il bighellone. Fine della favola L'uomo e la pulce. Questa registrazione è di dominio pubblico.